Ciao a tutte e tutti, e ben ritrovati a Uru, la trasmissione che parla di musica, suoni e un po' di notizie dall'Africa. Dopo un po' un periodo di vacanza ci risentiamo e vi ricordiamo subito i social per seguirci. Da dove state ascoltando è wombat.noblogs.org e da dove potete trovare tutte le altre trasmissioni della radio e anche scaricare i podcast. Poi c'è il profilo Twitter, Radio Wombat Firenze e la mail posta wombat@insiberia.net. Vi ricordiamo che Uru ha il proprio profilo Twitter che è uru-rv di Radio Wombat. Ricordiamo anche che Uru, oltre in diretta il venerdì alle 21:30, va in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. E come 26ª puntata, una puntata incentrata esclusivamente sui reggae. Una puntata precedente sui reggae era già stata fatta, era oramai la sesta, no, la settima puntata, qualche mese fa. Tra le diciamo, caratteristiche, tra le particolarità del reggae africano, veniva sottolineata, e la risottolineiamo ancora una volta, il fatto che questo tipo, questo genere musicale fa parte di tutto il continente africano. A differenza di altri generi musicali, magari anche più tradizionali, il reggae è suonato ed ascoltato e anche ballato, chiaramente. Un po' in tutti i paesi dell'Africa, eccetto probabilmente un po' meno nell'Africa magrebina e nell'Africa del Maghreb, comunque diciamo dalla fascia subsahariana fino a Città del Capo, fino al Sudafrica, l'Africa è un continente reggae, insomma, sostanzialmente. E a proposito di Sudafrica, il primo solista, diciamo, che vi facciamo ascoltare è un personaggio, un cantante che abbiamo già proposto appunto nella puntata precedente, ormai lontana, settima puntata. Si tratta di Lucky Dube, e Lucky Dube è appunto un cantante, un interprete di reggae sudafricano. Ha registrato addirittura 22 album in Zulu, che è una delle lingue principali del Sudafrica, in inglese e in Afrikaans. In un periodo di 25 anni è stato anche l'artista più venduto in Sudafrica. E la particolarità, purtroppo, è che Lucky Dube è stato ucciso durante una presunta rapina nel sobborgo di Johannesburg di Rosettenville, oramai 10 anni fa. Era nato a Ermelo, ora è Mpumalanga, così viene chiamato, fin da piccolo, diciamo, ha iniziato a suonare, e il reggae è stato appunto il genere musicale con cui è riuscito sostanzialmente a dire quello che voleva dire sostanzialmente. Cioè, Lucky Dube è uno dei cantanti sudafricani più conscious, nel senso che i suoi testi, le sue liriche, che le compone appunto direttamente lui, parlano appunto dei temi sociali, temi politici. La canzone che avevamo dato precedentemente era appunto un inno alla resistenza all'African National Congress. Stavolta invece vi facciamo ascoltare due pezzi, di cui il primo si intitola Crying Games. Anche Crying Games appunto parla della lotta contro l'apartheid, è tratto appunto da House of Exile, che è l'album da cui appunto era stata tratta questa canzone famosissima, House of Exile, e anche Crying Games. Tutto l'album, nella sua interezza, è un inno contro l'apartheid. È un album inciso nel 1989, e quindi ha dato un grosso contributo, almeno da un punto di vista culturale, a questa resistenza dei neri sudafricani. E appunto, come dicevamo, Lucky Dube è stato ucciso durante una rapina con una dinamica un po' ricorda quella con cui purtroppo è stato ucciso anche Peter Tosh, ma c'è chi sostiene che la rapina, diciamo, è stata una specie come dire, di cosa fatta proprio per uccidere Lucky Dube. Sostanzialmente era lui l'obiettivo della rapina, cioè la sua uccisione, perché comunque anche dopo la fine dell'apartheid Lucky Dube ha continuato a incidere e a portare avanti una protesta contro, diciamo, i potenti a favore dei più poveri, diciamo, delle classi meno abbienti. Questo è Crying Games, Lucky Dube. Maybe my poiché parliamo di reggae, quindi di Rasta, Rastafari, e non potevamo non dare questa notizia, e cioè che dopo anni di lotta i rastafariani che vivono in Etiopia avranno la carta d'identità come tutti i cittadini di questo paese. L'annuncio di qualche giorno fa è del ministro degli esteri etiope. I rastafariani della comunità di Shashamane avranno quindi accesso a scuola e a scuole e a tutti gli altri servizi, potranno acquistare proprietà e soprattutto non vivranno più in un limbo, cosa che avevano spesso denunciato. La storia di questa comunità risale agli anni 50, quando l'imperatore etiope Haile Selassie, considerato un messia, mise a disposizione 1200 ettari di terra nella città di Shashamane, appunto, a sud del paese, per i discendenti di schiavi africani che desideravano tornare a casa. Alla morte dell'imperatore il progetto perse un po' energia, comunque adesso ci vivono più di 300 persone, in modo totalmente autonomo e originale. In ogni caso Shashamane, a prescindere da quante persone ci vivano, resta la casa spirituale dei Rasta sparsi per tutto il mondo e un simbolo di libertà, di antiimperialismo e di ritorno alle radici, e per molti dell'Africa stessa. Il prossimo pezzo è un pezzo di Miatta Fambulle, una cantante liberiana, che è una delle voci più belle dell'Africa, e come a molte altre, anzi quasi tutte, le cantanti africane, ha iniziato a cantare fin da piccola e un desiderio le ha causato problemi, appunto fin da piccola, un suo padre, un ambasciatore, un diplomatico liberiano, che all'epoca in cui lei era piccola era ambasciatore liberiano in Sierra Leone, e la Liberia non era molto progressista, le donne, soprattutto le figlie di ambasciatori, non cantavano in sale da ballo e club. Quindi Miatta comunque continuò ad andare avanti e nonostante, diciamo, la sua volontà, molto spesso suo padre non gli imponeva, diciamo, di non partecipare ai concorsi, alle gare, e semplicemente alle esibizioni canore. E quindi a 19 anni, appena maggiorenne, viene via dalla famiglia e si trasferisce a Nairobi, in Kenya, per frequentare le scuole di canto. E poi ha iniziato a cantare professionalmente. Negli anni successivi ha iniziato a suonare, a incidere, fino a incidere un album con Hugh Masekela, il cantante sudafricano, a Lagos, in Nigeria. E successivamente si trasferisce in Inghilterra, dove c'è una grossa comunità africana, e comunque ritorna, come tanti cantanti, come tanti interpreti africani, ritorna in Africa proprio per continuare a lottare sulle questioni, una lotta che aveva già iniziato in Inghilterra, a Londra, proprio per continuare a lottare sulle questioni riguardanti l'emancipazione delle donne e dei loro figli. E Miatta Fambulle è diventata un'ambasciatrice per l'ECOWAS nel 1990, organizzando 16 contee africane per le donne di 16 contee africane per appunto la propria emancipazione. Questo è uno dei pezzi, diciamo, più conosciuti e anche più affini, attinenti alla lotta che sta portando avanti Miatta Fambulle, e si intitola Kokolioko. Kokolioko, Kokolioko, Kokolioko, Chicken Negro for Day. Go.

come già nelle trasmissioni precedenti, la pausa estiva di luglio, continuiamo a dare aggiornamenti sulla rivolta di Al-Hoceïna, che è la principale città del Rif marocchino in questo caso, una rivolta che è scoppiata nell'autunno scorso e la cui causa scatenante è stata la morte di un giovane pescatore triturato da un camion della spazzatura nel quale si era lanciato per recuperare un pesce che gli era stato sequestrato dalla polizia. E la morte del ragazzo, del giovane pescatore, è stato il detonatore del malcontento della regione. Abitata da berberi, il Rif è sempre stata una regione ribelle e proprio per questo, proprio per punire questa insofferenza verso la monarchia, Re Hassan II e poi, anche se in misura minore, Mohammed VI, l'attuale monarca marocchino, hanno tagliato fuori l'area da grandi flussi di investimenti sia pubblici che privati. E così la popolazione è costretta a vivere soltanto di pesca e di coltivazione dell'hashish, e chiaramente la disoccupazione, specialmente e in particolar modo chiaramente ancora la disoccupazione giovanile, è a livelli altissimi, e dall'autunno scorso le manifestazioni non sono mai cessate, e sono manifestazioni, giusto per riepilogare, auto-organizzate dal basso, in cui nonostante si potesse temere di una grossa preponderanza dell'elemento religioso, in realtà non è così. Sono manifestazioni popolari, sono manifestazioni per una vita più dignitosa, per un lavoro, istruzione e servizi pubblici. E sono culminate una grande dimostrazione che si è tenuta il 20 luglio scorso, nonostante i divieti dell'autorità, e la polizia e i manifestanti si sono scontrati duramente con la polizia, e come al solito ha sparato gas lacrimogeno all'altezza dell'uomo, ferendo molte persone. E una delle persone ferite, almeno inizialmente ferite, era Imand Atabi, che appunto è entrato in coma dopo essere stato centrato alla testa da un lacrimogeno il 20 di luglio. I membri dell'Iraq, il movimento di protesta, sono fermamente convinti che sia stato colpito da un lacrimogeno sparato appunto dalla polizia. Il giovane è stato trasferito all'ospedale, dove le sue condizioni sono rimaste a lungo stabili, ma giusto ieri l'altro, mercoledì, due giorni fa, è morto. E secondo le dichiarazioni del procuratore di Al-Hoceïna, le indagini sono ancora in corso, le solite dichiarazioni di circostanza, chiaramente per chiarire le circostanze di questo incidente, determinare la responsabilità e prendere le misure necessarie. In realtà, sia per il ferimento di Mahdi Tapi, prima ancora che venisse dichiarato morto, sia per il ferimento delle altre persone che sono state appunto colpite dalle lacrimogene alla manifestazione del 20 luglio, ma anche quelle che sono state picchiate oppure ferite dalla polizia in tutte le manifestazioni scoppiate dall'autunno scorso, in realtà al momento non c'è, nonostante appunto le dichiarazioni dei procuratori di Al-Hoceïna, non c'è nessun indagato. E quindi questa è la situazione, e molto probabilmente nei prossimi giorni si terrà altre manifestazioni, sia per portare avanti le rivendicazioni, sia per rivendicare e ricordare la morte di rivendicare l'appartenenza di Mahdi Tapi al movimento che si oppone al regime, e per continuare a portare avanti tutte le rivendicazioni del movimento Iraq. Adesso parliamo di Sonio Kosun. Anche di lui nella trasmissione passata sul reggae avevamo messo un pezzo veramente bello che si intitolava Faian in Soweto, su appunto le lotte di liberazione sia sudafricana ma anche namibiana e de Mozambico, eccetera. Lui è un musicista nigeriano ha suonato nei Kola Lubitus insieme a Fela Kuti, e di lui ascoltiamo Third World. Let's find the answers to the problems of the third world. This is your day of children Zion. There must be answers to the problems of the third world. This is your day of children Zion. We must find the answers to the problems of the third world. This is your day. This is your day, O children Zion. This is our chance, O children of the third world. This is your day, O children Zion. We should be singing the hymn of peace and freedom. This is your day, O children Zion. We should be ringing the bell of peace and freedom. This is your day, O children Zion. Be preaching the words of peace and wisdom. This is your day, O children Zion. We should be ruling from Cape Town to Cairo. This is your day, O children Zion. This is our day, O children of Zion. This is your day, oh yeah, O children Zion. This is our day, O children of Zion. This is your day, O children Zion. Listen to some of the reasons why we must give peace a chance now. Because when two elephants fight, the grass and trees suffer. Do you remember the great flood of Noah's Ark? So many people died. Don't you remember about Sodom and Gomorrah? Yes. So many people died. Remember the rise and fall of Babylon. Yes, so many people died. Do you remember the voyage of Africans? Yes, so many people died. I want you to remember the great Benin massacre. Yes, so many people died. Remember what happened in the First World War. Yes, so many people died. Remember what happened in the Second World War. Yes, so many people died. Remember what happened in the bloody war of Congo. Yes, so many people died. I want you to remember the bombing of Vietnam. Yes, so many people died. Remember what happened in the Civil War in Nigeria. Yes, so many people died. Don't you remember the killing in Soweto? Yes, so many people died. Oh, that's the world we are living in now. So many people died. Many people are suffering, so many people are dying every day. So many people died. Many people are homeless and so many people are starving now. So many people died. The problems of the third world. This is your day, O children Zion. Congratulations, people of Zimbabwe. This is your day, O children Zion. Congratulations, the children of Zimbabwe. This is your day, O children Zion. We must rejoice now with the children of Zimbabwe. This is your day, O children Zion. We should be singing the hymn of peace and freedom. This is your day, O children of Zion. My dear people, I believe this is not the time to be searching for who is wrong. This is the time to find what is right. We should be happy, happy, happy in the end. Everybody will be happy in the end. Yes, we should be happy, oh happy, happy in the end. Everybody will be happy in the end. This is not a time to be searching for who is strong. Everybody will be happy in the end. This is not the time to be searching for who is strong. Everybody will be happy in the end. Son con Third World. Vi ricordiamo i social della radio, e cioè il sito wombat.noblogs.org, da dove ascoltate lo streaming in diretta della radio. E vi ricordiamo che sempre sul sito potete scaricare tutti i podcast delle passate trasmissioni. Andando a sinistra e nella colonna podcast scendete fino alla trasmissione che volete, nel nostro caso Uru, e avrete la pagina da cui potete scaricare o riascoltare direttamente da lì tutte le trasmissioni passate. Poi abbiamo un profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfirenze. E vi ricordo anche che Uru la sentite alle 21.30 in diretta il venerdì, mentre in replica la potete ascoltare la domenica alle 10 la mattina o il lunedì alle 14. Potete scriverci anche a postawombat@insiberia.net. Il profilo Twitter di Uru è uru-rw. E dopo questo riepilogo di tutti i modi con cui ci potete ascoltare potete comunicare con noi un altro gruppo, una particolarità questa volta. Solitamente, anzi sempre, abbiamo proposto gruppi o singoli, cantante che comunque vivono, lavorano e fanno musica in Africa. In questo caso una cosa un po' diversa, sono nati e cresciuti in Africa, in cui molto spesso ritorna e i cui testi parlano dell'Africa, ma Omzu, MC Lie, Fisco Black, e cioè i Jamafrica Crew, sono nati e cresciuti in Senegal, ma si conoscono in Italia, qui da noi, e scoprono di avere in comune la passione per la musica. Provengono tutti da un cammino, da un percorso hip hop, e ognuno di loro ha sempre fatto della musica uno strumento di denuncia delle ingiustizie sociali, in questo caso le ingiustizie che avvengono in Africa. E dal loro incontro nasce una collaborazione, un collettivo sostanzialmente collettiva, che li ha portati pian piano a scoprire un'altra persona, quella per la musica reggae, che appunto vi proponiamo in questa 26ª puntata di Uru, e attraverso la quale continuano a diffondere i loro messaggi, diciamo, di dignità, di speranza, di lotta per una vita migliore. E quindi nel 2005 nasce appunto Jamafrica Crew, un grido di speranza per l'Africa e per il mondo intero, sotto certi punti, o almeno questo è quello che loro vogliono fare, e quello che si prefiggono. Nel 2007 il loro primo album, il demo del loro primo album, e nel 2009 il primo album completo, Immigration, il cui titolo appunto prefigura già quello che sono le tematiche dei brani che compongono l'album, e che di cui c'è un bellissimo videoclip, e vi consigliamo di vedere. Un videoclip che potete facilmente trovare in rete. E nel 2012 c'è il singolo Was Wasset, che ha un testo rivoluzionario, e appunto parla delle proteste del popolo senegalese contro il presidente Wade due giorni prima delle nuove elezioni del governo in Senegal. Noi vi proponiamo un pezzo dal primo album, Immigration, e il pezzo, la title track, Immigration, sono i Jamafrica Crew. Bado lab nasaran saran cebo balik. 1807. La Gran Bretagna è la prima nazione a mettere fuori legge la schiavitù. La tratta di schiavi è praticata dalle principali potenze europee fin dal 500, anche se fino alla fine dell'Ottocento in realtà il commercio degli esseri umani proseguì senza sosta, a dispetto delle leggi abolizioniste varate da tempo da tutti i paesi europei. In tre secoli almeno 14 milioni di esseri umani vengono prelevati con la forza dall'Africa e stivati nelle navi negriere dirette in America. Un traffico mostruoso di donne e uomini che avrebbe contribuito in modo determinante alla stagnazione demografica dell'Africa e alla spoliazione delle sue preziose materie prime. Una mostruosa trasfusione che ha dissanguato l'Africa per nutrire l'America e l'Europa. A 200 anni, appunto, e 210 in realtà, anni dall'abolizione inglese della tratta, sono ancora evidenti in Africa i terribili ricordi della schiavitù. Adesso proporremo un itinerario storico tra antiche fortezze, città portuali e altri luoghi simboli del commercio negriero, per non dimenticare. Cominciamo da il Ghana, dove il commercio dei negrieri seguiva strade diverse. C'era la tratta portoghese e spagnola che collegava il Golfo di Guinea e l'Angola, ma anche il Mozambico, al Brasile e alle Antille. Inglesi, olandesi e francesi invece destinavano gli schiavi alle piantagioni di cotone, zucchero, tabacco e caffè dei futuri Stati Uniti. Una volta selezionati, gli schiavi venivano riuniti in appositi centri di smistamento per poi essere imbarcati sulle navi. Una delle più antiche e meglio conservate strutture di questo tipo è il castello di St. George, costruito nel 1482 dai portoghesi, situato nella città portuale di Elmina, in Ghana, 180 km a ovest della capitale, Accra. Il grande cortile centrale, gli alloggi dei negrieri, le lugubri stanze invase dalla muffa in cui venivano tenuti gli schiavi, fanno di questo posto un museo permanente degli orrori dell'umanità. Sulla costa ghaneana, tra le città di Heta e Beina, si trovano altre strutture simili. A Cape Coast si sorseguono una serie di edifici che ricordano quella tragica epoca storica, come Fort Victoria, Fort William e Fort McCarthy. L'imponente Cape Coast Castle, a due passi dal mare, ospita un museo che raccoglie oggetti, immagini e reperti della schiavitù in Ghana. In Benin, dal Togo alla Nigeria, passando appunto per il Benin, si estende quella che veniva chiamata appunto la costa degli schiavi. Cuore pulsante del commercio negriero in questa regione era la città costiera di Ouidah in Benin, 42 km a ovest della capitale economica Cotonou, un luogo impregnato di storia e di spiritualità voodoo. a Quidà è possibile percorrere un breve itinerario che rievoca la strada battuta dagli schiavi per raggiungere le navi negriere che li attendevano ancorate al porto. Qui, come in altre città interessate dalla tratta, si trova la porta del non ritorno, un arco monumentale che evoca la tragedia della tratta. La distanza tra la porta e l'oceano è il cammino, lungo circa 4 chilometri, calpestato per secoli da migliaia di africani catturati e incatenati. Lungo il tragitto si incontra l'albero dell'oblio, attorno al quale venivano trascinati gli schiavi affinché dimenticassero il loro passato di uomini liberi. Passiamo poi in Senegal. In Senegal il commercio del legno d'ebano, così venivano chiamati gli schiavi alludendo al colore della pelle, della loro pelle, ha toccato anche le coste del Senegal. Sull'isola di Gorée, situata di fronte alla capitale Dakar, una posizione strategica vicina all'introterra ma affacciata sull'Atlantico in direzione dell'America, sorge la celebre Maison des Esclaves, la casa degli schiavi, dove uomini, donne e bambini venivano rinchiusi prima di essere condotti nel nuovo mondo. Oggi l'edificio è trasformato in museo e, essendoci stati, possiamo dire che effettivamente è impressionante pensare che dalla porta in fondo a questo corridoio buio circondato dalle celle che dà direttamente sul mare, quindi praticamente loro uscivano dalle celle e salivano direttamente sulla nave senza neanche più vedere terra praticamente. È veramente impressionante. Un'altra tappa è la Nigeria, naturalmente fondamentale. Dalla sua costa nel corso di 3 secoli circa 4 milioni di persone furono deportate verso le Americhe. L'attuale città di Bagadri, non molto distante da Lagos, costituiva uno dei porti principali delle navi negriere. Ancora oggi nella periferia di Badagry si può individuare il sentiero che percorrevano gli schiavi dal quartiere di Jeberufu Island fino alla spiaggia. In ricordo di quel periodo è stata realizzata una statua posta alla fine del percorso raffigurante due persone incatenate e a poca distanza si trova un albero di palma accanto al quale si può leggere la scritta comune a molti luoghi toccati dalla tratta, punto di non ritorno. Anche l'Angola è stata interessata dalla tratta e Luanda, fondata dai portoghesi nel 1573, ne era forse il centro più importante. Molti edifici della capitale sono i simboli architettonici di quell'epoca, come il Forte São Miguel, costruito nel 1576, o il Palazzo Dona Anna Joachina, abitazione di una delle più famose commercianti di schiavi. A una ventina di chilometri da Luanda si trova il Museo della Schiavitù, eretto sul sito originale dove gli africani erano stipati in attesa di essere condotti nel nuovo mondo. L'ultima tappa di questo breve percorso è la Tanzania, la città costiera di Bagamoyo, a 70 chilometri da Dar es Salaam, ebbe un ruolo da protagonista nel periodo della tratta. I sultani omaniti che regnavano nella regione fecero di questa località il punto di ritrovo delle carovane che giungevano dalla costa, sulla costa dal cuore del continente, specialmente dal Congo, dove tantissimi schiavi sono stati prelevati con la forza. Bagamoyo divenne il principale centro di smistamento degli schiavi, che venivano da qui inviati al grande mercato sull'isola di Zanzibar, altra tappa strategica, prima di essere spediti in America. Eh sì, effettivamente Gorée rappresenta un po' un luogo particolare per gli africani, a differenza di tutti gli altri posti che abbiamo visitato in Africa, in cui in misura diversa comunque altri umani di pelle bianca li vedevamo, li trovavamo. A Gorée eravamo gli unici bianchi, il resto erano appunto cittadini del Senegal, cittadini anche di tutte le altre parti del mondo, dagli Stati Uniti, Brasile, e c'è un libro in cui ci sono le firme e i pensieri di quelli che sono stati lì e vanno da Malcolm X a Martin Luther King, insomma, Gorée rappresenta veramente uno dei posti in cui diciamo gli africani di qualunque parte del mondo ritornano proprio non come turismo, ma per sostanzialmente ritornare alle loro radici e riacquistare la loro memoria storica. È un soggetto, ritornando a quelle che sono la nostra trasmissione, quello è il genere musicale della nostra trasmissione, cioè il reggae, è un soggetto che che utilizza, tra virgolette, la musica proprio come possibilità, come strumento di messaggio proprio a favore dell'emancipazione dei popoli africani, è Bongos Ikue, una leggenda della musica, in questo caso nigeriana. E al di là della sua voce, molto, molto particolare, è appunto la sua dedizione alla promozione dell'Africa e dei valori africani, tant'è che lui continua a utilizzare nelle sue canzoni, nei suoi pezzi, il linguaggio nativo Idoma, che è un linguaggio particolare di una tribù, di un'etnia nigeriana, e questo linguaggio, cioè l'utilizzo di questo linguaggio, no, significa non circoscrivere la comprensione o le sue canzoni a quelli che sono i nativi Idoma, ma proprio sta a significare il suo back to roots, insomma, il suo attaccamento a quelle che sono le radici africane. Tant'è che Bongos Ikue è amato, diciamo così, dalla grande maggioranza dei nigeriani, una base di sostenitori che attraversa le barriere linguistiche e quindi le tensioni etniche. Questo perché, principalmente perché il genere musicale, tra l'altro il genere musicale di Bongos non è facilmente decifrabile, o meglio è un crossover, diciamo, da questo punto di vista. È sempre stato un artista originale, diciamo, ha creato la sua musica, l'ha interpretata da un punto di vista vocale con il proprio idioma, la propria lingua, e anche quando è sul palco, diciamo, ha un enorme impatto, una capacità di connettersi con quelli che sono, diciamo, gli spettatori, che a quel punto non diventano più spettatori, ma, diciamo, sotto certi aspetti attori loro stessi del concerto. Di Bongos Ikue e della sua band, si intitola Il Groovies, vi proponiamo Still Searching, ancora cercando ancora. And I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Said I've been searching for true love, gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Man, I've been trying hard, mighty hard to find true love, but as yet ain't had much luck, but I'll keep trying till I find. You know the Bible said, if you seek, you will find. Ain't no doubt, Bible must be right. Well, I'll keep right on with my search that I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Yes, I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Sempre Uru, sempre Uru, sempre Radio Wombat. Ricordiamo Uru che significa libertà in Swahili, che è una delle lingue, anzi la lingua franca dell'Africa centrale, l'Africa dei Grandi Laghi. Uno va in onda il venerdì alle 21.30, appunto, e in replica la domenica alle 10 e lunedì alle 13, alle 14. E alcuni, stavo per dire molti, perché in realtà ci sono anche altri pezzi, magari vi daremo nelle portate prossime, parlando del reggae africano, alcuni dei pezzi che abbiamo proposto oggi fanno parte di una raccolta, si intitola Black Star Line e Reggae from Africa, e la particolarità è che Black Star Line riprende appunto il nome esemplificativo, sintomatico sostanzialmente, riprende appunto il nome della Black Star Line, che era la compagnia di navigazione fondata da Marcus Garvey, questo grande, uno dei grandi, diciamo, soggetti politici che avevano uno dei precursori, anzi il precursore, del teorizzatore del ritorno all'Africa, del ritorno alle radici, e che appunto fondò questa compagnia di navigazione in antitesi a quella che era la compagnia di navigazione più importante, più conosciuta, più usata all'epoca. Sta parlando dell'inizio del 1900, mi sembra 1903, quando è stata fondata Black Star Line. Appunto la compagnia più famosa all'epoca si intitolava White Star Line, non tanto per un rivendicare, diciamo, il fatto che dovesse essere utilizzata dai bianchi, ma semplicemente il nome l'avevano dato White Star Line. E Marcus Garvey fondò questa compagnia di navigazione, la Black Star Line, di cui facevano parte diverse navi, una flottiglia mi sembra di 3 o 4 navi, di cui due per trasporto persone e due per trasporto delle merci, dei beni sostanzialmente, che appunto venivano utilizzate, sono state utilizzate per alcuni anni, una decina di anni, per il ritorno in Africa da parte di chi appunto voleva ritornare, in particolar modo dagli Stati Uniti, ma anche dal Brasile, e per diciamo il trasporto di beni, in particolare quelli che diciamo non venivano utilizzati come beni di consumo, di largo consumo, ma quelli che, di cui gli africani, i neri, diciamo, delle Americhe, utilizzavano, sia dagli ingredienti per la cucina, agli strumenti musicali particolari propri dell'Africa e via dicendo. E appunto questa raccolta si intitola appunto Black Star Liner, Reggae from Africa, con una foto di uno degli edifici più importanti, più particolari dell'Africa, è una stella nera a sormontare tutto ciò, e che appunto era anche il logo di quella era la Black Star Line. Ora vi proponiamo un altro pezzo, sempre di Lucky Dube, il pezzo si intitola It's No Easy, e è un pezzo un po' particolare, nel senso un pezzo un po' più intimista da questo punto di vista, in cui però lui affronta la tematica, diciamo, del rapporto di coppia, diciamo così, da un punto di vista sociale. Il pezzo si intitola It's No Easy. Question that I told the answer. Ultimo pezzo, vi ricordiamo che potete ascoltare Uru in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Questa era la 26ª puntata. Ci risentiamo venerdì prossimo alle 9:30. Ciao a tutte e tutti.